Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney, ma in realtà oggi continuiamo a parlare della collaborazione fra Pixar e Disney con Cars, film uscito nel 2006. I personaggi di questo film, come suggerisce il titolo, sono esattamente delle macchine. Il protagonista, Saetta McQueen, è infatti un'auto da corsa molto famosa ed ambiziosa che si approssima a partecipare alla Piston Cup, importante campionato automobilistico. In viaggio per l'ultimo girone, però, Saetta ha un incidente e si ritrova disperso nel mezzo del nulla fra l'Arizona e il Kansas. Riesce a raggiungere una cittadina sperduta, Radiator Springs, causando la distruzione del manto stradale. Per questo motivo viene tenuto in stato di fermo dal sindaco della città e costretto a riparare i danni. Saetta, seccato per questa situazione, tratta in modo scontroso gli abitanti della zona, ma durante i lavori di riparazione inizia ad affezionarsi e a crearsi varie amicizie in città. Purtroppo però il sindaco, Doc, un ex campione della Piston Cup, deluso dal mondo dei campionati automobilistici, è particolarmente astioso nei confronti di Saetta, che considera solo un'arrogante auto da corsa. Infatti, finiti i lavori a cui Saetta era costretto, Doc comunica alla stampa la presenza dell'auto da corsa a Radiator Springs, che molto presto invade la città per riportare Saetta alla gara. Saetta, amareggiato per non essere riuscito a salutare i suoi amici, perde diversi giri, fino a quando non vede sugli spalti gli abitanti della cittadina, fra cui Doc, che lo incitano. Il protagonista recupera posizioni, ma un altro concorrente, ovvero Chick Hicks, con metodi poco leciti, si fa strada mandando fuori pista varie macchine. Saetta decide di rinunciare alla vittoria e aiutare gli altri concorrenti penalizzati, perdendo obiettivamente la gara ma vincendo la fiducia del pubblico, delle altre auto da corsa e dei suoi amici. Ed infine il protagonista decide di investire in uno svincolo autostradale a Radiator Springs dove abiterà insieme ai suoi amici. Cars è il primo film di animazione finanziato dalla Disney basato puramente su delle macchine. Soggetto difficile da animare e da rendere credibile. Il film infatti ha richiesto quasi 6 anni di realizzazione. A parte qualche controversia, infatti la trama del film è molto simile ad una commedia romantica del 1991 chiamata Doc Hollywood, anche se nessuna accusa di plagio è mai davvero stata fondata, il film ebbe molto successo, incassando più di 60 milioni di dollari in tutto il mondo, vincendo vari premi. Questo grande successo ha creato quasi un franchising fra gadget, sequels, videogiochi e spin-off. Il 2006 è inoltre un anno molto importante sia per Pixar che per Disney. Il contratto decennale che vedeva una collaborazione fra le due aziende volge al termine, ma Disney annuncia le sue intenzioni nel comprare definitivamente la Pixar. Da ora in poi i film di animazione Disney saranno tutti prodotti dalla divisione 3D degli studi Pixar, affermando un nuovo modo di fare animazione. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.